America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington, di ritorno dallo Scabbos al seguito del presidente Obama, Mario Platero. Ieri, dopo una giornata intensa, devo dire, difficile, si è chiuso il G20 messicano finalmente con una nota positiva sull'Europa. Sentiamo intanto il presidente del Messico, Felipe Calderón, che ha ospitato e presieduto il vertice. Io credo che poco a poco si va configurando. Mi pare che qui si generò un ambiente, si establecieron afirmazioni di principio molto importanti che si reflejan nel comunicato. Si fa la storia, dice Calderón. Se guardi in avanti, vedo un'Europa che procede verso la convergenza, che non va indietro, che raggiungerà un unico processo fiscale, un'unione bancaria. Sono queste le grandi tendenze che saranno consolidate nei prossimi incontri europei. Felipe Calderón chiude con un inno all'Europa, un G20, un vertice globale che si era aperto con un atto d'accusa contro l'Europa, e in questo, a sorpresa, il presidente messicano non è da solo. I'm very pleased that the European leaders here said that they will take all necessary measures to safeguard the integrity and stability of the Eurozone, to improve the functioning of the financial markets. Avete sentito il presidente americano, anche lui, elogiare ed esprimere ottimismo per i progetti europei, per le proposte dell'unione bancaria, per le missioni di garanzie sulle banche, per rafforzare i capitali delle istituzioni finanziarie, per l'idea che possano esserci delle situazioni in cui l'accesso al credito costerà di meno per Spagna e Italia. Insomma, il piano europeo ha avuto ieri l'imprimatur del presidente americano. L'architettura europea, ha detto, rappresenterà una svolta, e lo ha detto dopo l'atteso vertice con gli europei di ieri mattina, dopo le tensioni, le telefonate transatlantiche difficili delle settimane scorse, le differenze con la Germania, il giallo del vertice cancellato l'altra notte. Insomma, Europa e Stati Uniti si sono finalmente chiariti. Toccherà all'Europa mettere a punto i dettagli durante il loro vertice la settimana prossima, ha detto ancora Barack Obama in questa dichiarazione che vi ho fatto sentire, e ha detto di essere a questo punto ottimista sul futuro del processo di integrazione europea, ripetendo naturalmente che la responsabilità di andare avanti tocca all'Europa, tocca alle 27 nazioni europee, quindi dice soltanto alcuni paesi europei erano rappresentati qui al G20. Nel medio termine, ha detto ancora Obama, c'è il processo di integrazione, ma ci saranno anche misure a brevi per la crescita, con una coda importante, ve l'ho accennata prima, questi sviluppi, ma lo sottolineo perché è un punto chiave, questi sviluppi, ha detto Obama, dovrebbero consentire a Spagna e Italia di indebitarsi a tassi più ragionevoli. In effetti, dopo un impegno preso in forma collettiva davanti a una platea globale, devo dire, mi sembra impossibile che i negoziati europei della settimana prossima possano deludere. Anche la Germania, sempre a rischio di resistenze e di sorprese, dovrebbe alla fine non fare quelle sorprese che in passato ha fatto. E la cosa che mi ha colpito alla fine di questo vertice è che l'America sta cavalcando questo momento storico per l'Europa. Questa possibile svolta smentisce Obama, chi definiva Washington anti-euro, e anzi direi che Washington si affianca all'Europa, e indica tre punti chiave emersi nel vertice di ieri. Two things the world is doing for Europe now, which are very important. One is we are very supportive of the IMF playing a significant role in reinforcing the reform process in Europe. L'imprimatur è arrivato, come vi ho detto, anche dal segretario al tesoro Tim Geithner, una voce molto credibile per i mercati. Tre punti. Primo, ha detto Geithner, c'è un chiaro appoggio alla Grecia, e questo è importantissimo. Secondo, c'è un'architettura per far confluire capitali nel sistema bancario per la formazione di un'unione bancaria. Terzo, ci sarà molta concentrazione sulla crescita. Sappiamo quanto la crescita sia importante per l'America, sappiamo quanto lo sia per Barack Obama e per la sua amministrazione. Ci sono elezioni a novembre, e dunque, se non ci si muove ora, se i tempi non accelerano adesso, diciamo che il contagio ha già prodotto una debolezza globale, una debolezza economica per gli Stati Uniti. La possibilità di un colpo di reni c'è, se le cose cominceranno a maturare prestissimo. Per chiudere vorrei farvi ascoltare una chiacchierata con il nostro Presidente del Consiglio ieri mattina, quando ci ha dato un quadro delle posizioni che hanno poi portato alle conclusioni di questo vertice ieri. Si è stato sottolineato da parte americana la necessità di sostenere la domanda. Ieri nella conferenza stampa che hanno fatto alla Casa Bianca hanno sottolineato questo punto, che è stato un elemento di contenzioso durante la preparazione del documento. Ci sono da parte americana due aspetti: un elemento a breve di stimolo della domanda e rilancio della crescita, ma dall'altra si è percepita anche un'esigenza di capire che tipo di modello europeo stia cercando in questo negoziato sull'unione bancaria, fiscale, politica e così via. Dunque si dice negli ambienti vicini alla Casa Bianca che ci sia un po' di preoccupazione che emerga un modello troppo tedesco. Ecco, su queste due cose, stimolo della domanda e il rischio che emerga un modello europeo molto incentrato sulla Germania, cosa ha da dirci? Questo è stato il tema del mio intervento nella seduta plenaria ufficiale ieri pomeriggio, cioè la necessità di un forte rilancio della crescita, però non a scapito dell'equilibrio di bilancio. E come avere questa crescita? Qualche volta diventa un po' ideologica la distinzione tra crescita attraverso impulsi alla domanda e crescita attraverso politiche strutturali dell'offerta come quelle che predilige la Germania. La posizione che io ho espresso, della quale il governo italiano è convinto e che non è presentata per spirito di compromesso ma perché credo sia la più feconda, è quella di dire certamente manteniamo politiche dell'offerta strutturalmente corrette, le riforme strutturali, ma c'è anche bisogno di domanda per alimentare le economie che intanto di continuo migliorano con le riforme. Ebbene, questa domanda in una prospettiva di offerta è bene che sia costituita il più possibile da domanda per investimenti, quindi privilegiare l'investimento rispetto al consumo, ivi incluso se è un investimento produttivo per il paese, l'investimento pubblico. Voi sapete che è una posizione presa da lungo tempo dall'Italia questa, perché nel quadro di politica economica europea ci sia più spazio per gli investimenti pubblici e è una delle linee di pensiero che si stanno affermando in Europa, corroborate da questa pressione internazionale che appunto che noi filtriamo attraverso pur sempre il rispetto della disciplina. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, anzi scrivete, attiviamo social radio, fatemi sapere quali sono le vostre osservazioni su questo vertice, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, siamo sulla costa atlantica ma restiamo col cuore nella Baja California. Vorrei chiudere con un'altra canzone messicana e dunque vi propongo, nell'interpretazione della rock band del Texas Shingon, scelta da Quentin Tarantino per la colonna sonora del suo Kill Bill, Malagueña, Sale Rossa. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. The Washington è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!